da un po' di giorni non riesco più a dormire. C'è una massa oscura e infida che lo so mi vuol ghermire. Striscia piano sotto il letto, attende dietro alle tende, dietro porte e finestre, pazientando lei mi attende. Non c'è angolo sicuro, attraversa anche il mio muro. Non c'è posto che mi asconda da una melma ingorda e immonda. È già da molti anni che possiede le persone senza alcuna distinzione. Non le importa che siano buone. Quando prende per la gola ti risale le budella, entra dentro la tua mente, dentro alla tua coratella. Non c'è scampo per nessuno, per pochi quantomeno. Chi resiste resta solo, circondato dal veleno. È molto orrificante questa gente sorridente. Un sorriso vale niente se l'intenzione è alienante. È molto orrificante questa gente decadente. Una gioia ambivalente la fa essere arrogante. Di una bimba fantasiosa ne fa una fotomodella. Se un bambino è divergente gli srovella ogni rotella. Di una mamma amorosa ne fa una pavoncella. Se un papà è calmo e buono gli sfrittella le cervella. La sostanza è sempre quella, ma l'effetto molto vario. Riconoscerla di certo si può solo decifrando il tuo sudario. È molto orrificante questa gente sorridente. Un sorriso vale niente se l'intenzione è alienante. È molto orrificante questa gente decadente. Una gioia ambivalente la fa essere arrogante. È molto orrificante questa gente sorridente. Sorriso vale niente se l'intenzione è alienante. Molto orrificante questa gente decadente. Una gioia ambivalente la fa essere arrogante.